C'è un errore di stampa, se ti può interessare, così la ricchezza rimane ancorata al luogo dove, vero? Può essere, scusate. Se non è. No, io sono dei Cagliari, in realtà, appena hai parlato di Sardi, okay. Ho capito che ho parlato, però non... Ma anche tu sei tardi? No. No. Allora, abbiamo, non credo, tanto tempo, vero? Sono le 6:15, ci eravamo proposti di finire alle 6. Però io posso stare ancora, però non so voi. Vabbè, facciamo, diciamo, alle 6:30 massimo, chiudiamo, eh. Massimo alle 6:30, anche io devo tornare a Pisa. Allora, avete letto, cerchiamo di capire insieme, di approfondire insieme. Intanto, chi è che vuole dire cosa ha capito, le parti che ha capito, oppure le parti che l'hanno lasciato perplesso, le domande che vi siete fatte? Anche piccole parti, ciascuno dice qualcosa. Ecco. Io ho capito... sistema di garanzia. Di aspetta, partiamo da quello che abbiamo capito, dopodiché quello che non si è capito. Va bene. Chi vuole dire qualcosa che pensa di aver capito? Sulla parte business to business, cioè è un baratto, nel senso che cioè, le aziende si tramite il Tradex si scambiano dei crediti in base a cioè se temporalmente quell'azienda non ha dei soldi per poter acquistare un determinato servizio da un'altra, cioè c'è una sorta di un pagherò che viene gestito tramite questa rete. Cioè, no, allora business to business significa che c'è una relazione da un'azienda all'altra. Un'azienda può essere un'azienda fornitrice, l'altra può essere l'azienda che acquista ciò che gli viene fornito. Faccio un esempio, c'è un ristoratore e c'è un produttore di vini. Ecco, allora ci può essere uno scambio tra il ristoratore e il produttore di vini. Business to business. Sì. Ora okay. Capisco quando dicevano pagamento in Sardegna, cosa volevo dire? Sì, altri interventi. Cioè, tu vuoi sì, sì, cioè, in questo senso però cioè, nel momento io in cui acquisto, cioè questo Sardex all'inizio non esiste, cioè nel senso non è nell'anno zero del Sardex. Sì, quanti soldi deve mettere un'azienda? Zero. E appunto, però io quindi quest'anno zero ti dico a te. Ora poi però specifichiamo cosa significa questo. Ti do il vino che vale 100 Sardex. Sì. E te prendi... Allora cosa succede? Se tu mi dai il vino che vale 100 sardex, attenzione, un sardex, un euro, parità, non è convertibile il sardex in euro, è solo, la moneta è solo unità di misura del valore delle cose. Chi è che stabilisce il valore delle cose? Il mercato. Il vino vale 100 euro, cioè 100 sardex. Noi siamo un circuito. E si scrive 100 sardex sul mio. Allora, sì, il tuo conto, che era zero, immaginiamo che fosse a zero, va su di 100. 100 sardex. Tu sei io, chi compra o chi vende, no? Lui vende. Quindi io acquisto, il suo conto va su di 100. Lui ora possiede 100 crediti sardex. Tu vai sotto. Io vado sotto di 100. Ma il rapporto è solo tra me e lui? No. Perché si inseriscono tutti gli altri. Quindi il ristoratore riceverà una volta se entra nel circuito il B2C, il consumatore, cioè il cliente. No, confusione. No. Ti fermo. Allora, intanto, cosa significa business to business? Sono coinvolte le aziende, ma attenzione, in un circuito di questo tipo, solo le aziende possono farne parte? No, certo. La risposta è no, i dipendenti, esatto, ma anche i professionisti, ma anche i consumatori, cioè la gente comune, vedremo come. Allora, intanto abbiamo stabilito, lui mi ha venduto del vino, il suo conto va su di 100, il mio va giù di 100. Io ho un debito, con chi ce l'ho il debito? Brava, non ce l'ho con lui, ce l'ho con la comunità. Altra domanda, brava, perfetto. Allora, come faccio a estinguere il mio debito con la comunità? Bravo. Vendendo ciò che produco. Io sono un ristoratore, davanti al mio ristorante c'è scritto qui si accettano sardex. Allora se entra qualcuno può pagare in euro, ma può pagare in sardex se ne dispone. Allora io come pago? Pago vendendo ciò che produco. Ecco lo scambio, ma è uno scambio tra me e lui? No. Coinvolge tutta la comunità. Questa è la forza. Scambio multilaterale in compensazione. Poi, continuiamo, altri interventi. Tutte le perplessità che vi vengono, tutte le, io, i dubbi. Prego. Cioè, se all'interno del circuito io non riesco a vendere la mia roba perché non interessa a nessuno, rimango così meno 100 sardex. Giusto. Ottima osservazione. Allora, tu non puoi far parte del circuito se non vieni accolta nel circuito. E non puoi non essere accolta nel circuito se ciò che produci non interessa la comunità. Oppure se non soddisfi al codice etico della comunità. C'è un codice etico estremamente rigoroso. Se tu, per esempio, fai un'attività che si sa che inquini, non puoi far parte di quella comunità. Devi cambiare il tuo modo di produrre. Se si sa che tu sei in odore di mafia, tu non puoi far parte della comunità. Se ciò che produci non interessa a nessuno, tu non puoi far parte della comunità, perché faresti solo debiti all'interno della comunità, ma non potresti offrire niente di interessante per la comunità. Ora vi devo dire una cosa. C'è modo, non lo fanno ancora nel Sardex, ma di coinvolgere le associazioni come riconosciute, associazioni che vengono riconosciute come produttrici di bene comune per la comunità. Vedremo come, vedremo come. I gruppi di acquisto solidale. Sì, ma quella è una cosa un po' diversa. I gruppi di acquisto solidale sono un'esperienza in cui mettiamo a diretto contatto, questo avviene naturalmente all'interno del circuito, il produttore e il consumatore. E il produttore deve soddisfare determinati criteri, altrimenti non può far parte del gas. Quello è l'esperienza dell'economia cosiddetta solidale. La moneta che circola nei gas è l'euro. Questa è un'esperienza altra, in cui possiamo coinvolgere gruppi di acquisto solidale, ma in un modo diverso. Noi qui ci stiamo chiedendo una cosa: se sparisse la moneta o se ce n'è poca in circolazione, come possiamo rimediare? Come possiamo attrezzarci? Allora, gli stavo dicendo che l'esperienza a cui hanno fatto riferimento quelli del Sardex e il VIR. Quando è nato il VIR in Svizzera? Nel 1934, all'indomani della grande crisi, quella del 29, che ha provocato una situazione di rarefazione monetaria. Sarebbe bellissimo se ce la facessimo. Potremmo concludere, vi vorrei mostrare un piccolissimo documentario. Lo facciamo, me ne vado più tardi, ma lo facciamo, se voi ci siete. Durerà 5 minuti e ci presenterà una cittadina austriaca, Vörgl, dove hanno fatto un esperimento di moneta locale in quegli anni. Ma dovete ascoltare la viva testimonianza di chi ancora è vivo e racconta quell'episodio. Me lo voglio far sentire. Appena abbiamo finito di parlare del Sardex, non finiremo mai, Prego, allora. Forse lei doveva finire. Io ti ho risposto in parte. Sì. Mi chiedevo come avveniva l'accettazione. Il circuito. Sì, cioè, c'è un codice etico. Ma proprio non il solo codice etico, il fatto per capire se il mio servizio è quello utile. Che io metto è utile. Ecco, ci sono degli operatori. Il Sardex funziona così: ci sono dei ragazzi che lavorano per il circuito e cercano di mettere in relazione le parti. Per esempio, si accorgono che c'è una forte richiesta di qualcosa non soddisfatta all'interno del circuito. Allora, certo, invieranno qualcuno a coinvolgere chi produce cosa manca all'interno del circuito. Ma si possono anche accorgere che manca il produttore di qualcosa, di un servizio, di una merce. Per cui siamo costretti a rivolgerci, altro aspetto, ai centri commerciali che magari fanno capo alle multinazionali. Allora, in pratica cosa fa la comunità? Dice: manca questa cosa, potremmo investire nella produzione di ciò che manca all'interno della comunità, produrlo localmente, evitando di rivolgerci ai grandi centri commerciali che fanno capo alle multinazionali e che hanno una capacità estrattiva che tutti conosciamo come dannosa per la comunità. Ecco. Altre considerazioni fate, per favore. Una domanda, sì. Che estensione ha all'interno della Sardegna questa istante? È una domanda importantissima. Ascolto, ho visto un video in cui è nato nel 2010, è cresciuto in maniera esponenziale. Allora, cosa hanno fatto? Utilizzando gli strumenti digitali, si vedono dei puntini che nascono nella zona di Cagliari. Non è a Cagliari, ma in un comune. Anche questo mi sta sfuggendo il nome del comune di Cagliari. Allora, si vedono dei puntini che nascono. E se tu ascolti i fondatori del Sardex, raccontano. Dice, noi quando abbiamo capito che poteva funzionare, perché avevano studiato il sistema VIR, quello delle camere di compensazione, abbiamo cominciato a rivolgerci agli imprenditori locali. Andavamo e dicevamo, guarda, si potrebbe fare questa cosa, molto eccitati. E l'imprenditore ci diceva, sì, bene, ma quanti siamo? Beh, ci sei tu e c'è quell'altro. Due. Siamo in pochi. Allora, partire per loro non è stato facile, perché capite che è importante. Ma sapete quanti sono oggi? È nato nel 2010, si è esteso dalla provincia di Cagliari a tutta la Sardegna. E è interessante vedere che hanno coinvolto le aziende locali, le imprese locali, i professionisti e poi, vi dicevo, non solo il business to business, ma anche la consumatore comune. Vedremo poi come. Ma la cosa incredibile è che hanno cominciato a estendere il circuito ad altre regioni. E parlano di metacircuito. In che senso e come funziona il metacircuito? Funziona così. La Sardegna, per esempio, ha una grande vocazione turistica, ma il Piemonte ha una grande vocazione manifatturiera. Beh, cosa facciamo? Uno scambio in compensazione tra circuiti. Funziona? Benissimo. Funziona benissimo. Questa è una cosa incredibile, che, attenzione, poteva cambiare il mondo a Bretton Woods nel 1944, perché questa proposta di regolazione dell'economia mondiale l'aveva fatta John Maynard Keynes, all'indomani della grande crisi, nel 1934, scusate, a Bretton Woods, all'indomani della grande crisi. È stato bocciato questo sistema per regolare l'import-export nel mondo intero. Avremmo avuto un futuro completamente diverso. La Bretton Woods era una conferenza... Sì, mondiale, sì, tra le due guerre. E i nostri costituzionalisti erano perfettamente coscienti che il sistema liberista aveva portato all'affermazione dei grandi totalitarismi, che aveva portato alle grandi guerre. Guardate la situazione in cui siamo oggi. Le costituzioni antifasciste del dopoguerra avevano cercato, e lo dicono espressamente i nostri costituzionalisti, basta leggerli, no? Se leggete i verbali della Costituente, loro dicono dobbiamo fare in modo che quel sistema economico non possa più riprendere piede, perché porta ai totalitarismi che portano alle guerre. Pensate un'altra cosa, che dal 50 al 58 è stata attiva una camera di compensazione a livello europeo, si chiamava UEP, Unione Europea dei Pagamenti, e cosa faceva? Compensava import con export su scala europea, funzionava benissimo, è stata chiusa. Come si chiamava? UEP. Chi ne parla sono due storici dell'economia, io l'ho saputo da loro, un po' non ortodossi, pur essendo bocconiani, e sono Massimo Amato e Luca Fantacci, se non ricordo male. Sì, Massimo Amato e Luca Fantacci, che tra l'altro sono anche consulenti del SADEX, chiamati dopo. Allora, andiamo avanti. Quindi stiamo cominciando a vedere come lavora un circuito di credito commerciale, altrimenti detto rete di mutuo credito. Stiamo dicendo, attenzione, è una moneta non capitalista. Perché? Abbiamo detto prima che la moneta è, ci permette di scambiarci le cose e ci permette di misurarne il valore dei beni e dei servizi scambiati. Ma attenzione, la moneta la utilizziamo anche per un altro valore, è stato per un altro, ha un'altra funzione anche. Quale? È stato accennato prima. Noi possiamo metterla, accumularla, riserva di valore. Questa è l'altra funzione della moneta, riserva di valore. D'accordo? Ma cosa succede se accumuliamo una moneta? Ne accumuliamo troppa da parte, non circola più nell'economia, la sottraiamo alla comunità. È possibile accumulare il SARDEX? Non conviene. Non conviene. Perché quando hai dei crediti, prima di spendere gli euro con cui devi pagare le tasse, spenderai i tuoi crediti. I tuoi crediti SARDEX. Può anche non convenire per un altro motivo. Si può introdurre non un interesse, un tasso di interesse positivo, ma attenzione, ricordatevi il tasso di interesse positivo cosa provocava, ma attenzione, viene chiamato demurrage o tasso di interesse negativo. Se io trattengo troppo la mia moneta, non è il caso del SADEX, la mia moneta rischia di perdere piano piano valore. La devo spendere nella comunità, non la devo sottrarre alla comunità, non posso accumularla. Accumulare la moneta può avere conseguenze negative, ma abbiamo bisogno di risparmiare. Abbiamo bisogno di risparmiare per che cosa? Abbiamo bisogno di risparmiare, noi tutti risparmiamo per gli eventi eccezionali, no? Per la vecchiaia. Per la vecchiaia, per le malattie e così via. Ecco, qui si apre un altro capitolo, non possiamo affrontarlo oggi, però sappiate che i titoli di Stato in origine servivano a questo, in origine, quando avevamo però una moneta nazionale. Tu hai accennato a questo. Solo nostra. Solo nostra. Oggi il debito pubblico ha cambiato natura, ci si rivolge contro, ma di questo magari un'altra volta, se no mettiamo troppo tempo. C'era un video che girava verso Natale, il tutto del debito pubblico, spiegato bene, è un... Di Marco Bersani. Sì, Bersani. Non è Bersani, è uno che... Ma il titolo è quello, eh. Subio Blu ha fatto questa lezione veramente chiarificatrice sulla differenza tra i BTP, tra i buoni del tesoro. Allora è Guido Grossi. Esatto, Guido Grossi. È un grande. Bravissimo. Sì. Lui era dipendente di Banca Italia. No, della Banca Nazionale del Lavoro. Sì, lo conosco, scrivo personalmente scrivo per Sovranità Popolare, che è una rivista. Qui è uscito il numero 0, ora sta per uscire il numero 1 e stiamo lavorando a costruire online. Il numero 2. Si trova online e anche cartacea, però bisogna abbonarsi. Ah, ecco. Sì, Sovranità Popolare, non a caso. Come si fa? E Guido Grossi è una persona splendida ed è un maieuta naturale dal mio punto di vista. Io lo seguo. Lui sì, è da ascoltare. E finalmente ha chiarito la situazione. Certo, e lui dice nulla, sì, brava, in questo sì, materiale planetario. Certo. E lui ha spiegato con estrema chiarezza che mentre i BOT, mia nonna aveva tutti e solo brava, i BOT, sì, si faceva i conticini, erano appunto delle riserve di denaro che servivano per la vecchiaia, in modo che quando avevi per le urgenze impreviste quando avevi bisogno li potevi ritirare, erano ottimi come rendimento. Invece il mercato finanziario internazionale, insomma americano, Wall Street, ha spostato tutto verso i BTP, cioè i buoni del tesoro poliennali a lunghissima scadenza, che non assolvono più alla tua funzione necessaria di risparmio, di cosa, quando per le urgenze la vedi, ma servono appunto per la finanza a guadagnare più denaro. E di lì tutta questa situazione assurda in cui è un cul-de-sac in cui ci siamo infilati. Sì, hai detto molto bene. Guido Grossi distingue tra prodotti di investimento e prodotti di risparmio. I BOT avevano la valenza di prodotti di risparmio che ti proponeva la banca, e lui dice: oggi noi abbiamo parlato di 4.300 miliardi, ricordate, di risparmi, sì, che le persone non sanno più bene come impiegare. Allora, a quel tempo, negli anni 70-80, primi anni 80, si vendevano, cioè lo Stato italiano piazzava i BOT a chi? Alle famiglie, alle imprese, ed erano a breve termine, a breve scadenza, e offrivano un tasso di interesse. Per cui, che funzione avevano? Di rimettere in circolazione la moneta che altrimenti stagnava e di proteggerla rispetto all'inflazione. Perché tutti sappiamo che se i prezzi aumentano con un certo ritmo, il valore del denaro si abbassa. Allora, l'articolo 47 della nostra Costituzione dice che la Repubblica disciplina, coordina, controlla il credito, cioè ha l'obbligo di proteggere i risparmi e di farli circolare nell'economia reale. La situazione che tu hai descritto oggi è quella per cui i BOT ormai hanno un interesse negativo, cioè tu li compri a 100 e ti restituiscono 95, per fare un esempio. Quindi la gente non li compra, ma non compra nemmeno i BTP perché sono a 10, 20, 30 anni e sono prodotti di investimento. Infatti chi li compra spesso fa la compravendita, cioè sfrutta le oscillazioni di valore. Infatti siamo nel regime dello spread, in passato non si sentiva parlare di spread, ma ci sono troppe cose che dovremmo dire qui. Torniamo, allora, ma solo per concludere la cosa che ha detto lei. Abbiamo 4.300 miliardi che potremmo impiegare nell'economia oggi, sì, di risparmio italiano, e potremmo fare cose mai viste. Non riusciamo a impiegare i nostri risparmi, e il rischio che denuncia Guido Grossi è il fatto che nel nuovo regime bancario, quello di Basilea 3, quello del bail-in, per cui il risparmiatore che non sceglie bene la sua banca e la sua banca fallisce, ne abbiamo già un esempio, questi soldi ci possono venire sottratti. Ma ci sono sottratti anche quando ci propongono dei prodotti di investimento che sono tossici, che sono prodotti finanziari che pretendono di fare soldi con i soldi bypassando l'economia reale. L'opposto di quello che fa per esempio una banca come la banca etica. La banca etica ti dice dove impiega il tuo denaro e con quale criterio lo impiega. Noi prima avevamo tutte banche pubbliche, oggi non abbiamo più banche pubbliche, abbiamo solo banche private che sono diventate banche d'affari. Ricordate il discorso di prima, eh? Quindi abbiamo una percezione di povertà che non è reale, eh? Non è vera povertà. Prego. No, le banche pubbliche quando diventano private? Negli anni 90. Cioè, tipo, non si bisogna interrogarsi su... Il Banco, sì, di Napoli era una banca pubblica. Certo, ma anche Guido Grossi, no, racconta, cioè, come mai se n'è andato dalla Banca Nazionale di Napoli. Negli anni 90, nell'epoca delle privatizzazioni. Noi abbiamo... Ma perché? Sì, è che ora siamo... Però fermiamoci un attimo, dobbiamo... Sì, ok. Ma dovrei aprire un altro capitolo, quello degli anni 80. Cosa succede nell'81? viene separata la banca centrale dal tesoro, cioè dal governo. Da allora vi dovrei raccontare tutto il meccanismo dei titoli di Stato, come abbiamo fatto entrare il mercato nelle aste pubbliche dei titoli di Stato. Vi dovrei raccontare l'inizio della fine. Però, perdonatemi, non possiamo farlo ora. Sì, dobbiamo chiudere. Poi c'è il mio libro, io ci ho lavorato per 6 anni, chi vuole... Due domande. Chi vuole vi lascio il libro, possiamo tornare sulle cose e così via. Perché veramente io ho impiegato più di 6 anni per fare una ricostruzione, ascoltando, ho ascoltato, ma vi raccontassi quanti economisti ho ascoltato. A un certo punto ho mandato il mio manoscritto a Nino Galloni, che mi ha risposto con 3 parole. Testo molto buono, ricordo Nino Galloni è un grande economista, mi ha risposto così e io gli ho riscritto chiedendogli me la farebbe la prefazione e immaginate la mia gioia quando mi ha detto molto volentieri, il mio libro contiene la prefazione di Nino Galloni, no? Che se tu hai ascoltato, do del tu posso... Certo. Se hai ascoltato Guido Grossi, vai su YouTube e ascolta anche Nino Galloni, Antonino Galloni. Ma ce ne sono tanti, tanti veramente, che però nel mainstream precedente, ma anche attuale, non passano assolutamente. Viviamo all'interno di una grande confusione mentale rispetto ai fatti dell'economia. E poi ci dicono che non possiamo capirla. Io vi dico, guardate, la persona più comune può capire l'economia. Bisogna vedere come gli viene... Cioè, ho capito io oggi, ragazzi. Torniamo a Sardes, per favore. Ma come mai che questo Sardes, visto che nasce nel 2010, io personalmente, che ho un po' di giornale, lo scopro ora... Cioè, è rimasto completamente sepolto nelle comunità e quindi a questo punto in Sardegna. Cioè, come mai non è passato? Allora, ci sono tanti motivi. Intanto se ne parla pochissimo. Ma tu ora, quando torni a casa, per curiosità, vai su sardex.net e fai una grande scoperta. Dopo ti accorgerai che è diventato un metacircuito. Ci sono molte regioni, tra queste regioni che ora adottano, diciamo, lo stesso sistema, tra queste regioni non c'è la Toscana. C'è il Veneto. Venetex. Perché sono Veneto. Piemex. E così via. Ora, quando è che diventa importante? Diventa sempre più importante quante più persone, aziende, professionisti riesce a coinvolgere. Sparisce l'euro? No, io con l'euro ci devo pagare le tasse nel sistema attuale. Contenuto come? In qualche modo viene contenuto. Allora, guardate, cosa succede all'interno di un circuito come il Sardex? Immaginate che io sono un costruttore e lei mi chiede una ristrutturazione di casa sua, della sua azienda. Io sono un costruttore e faccio anche ristrutturazione e lavoro per lei. Lei per fare questa ristrutturazione spende 10.000 euro, ossia all'interno del circuito 10.000 Sardex. Quindi il suo conto va giù di 10.000, il mio va su di 10.000. Ora guardate, in una condizione normale io devo aspettare e sperare che lei mi paghi subito. O se lei non può pagarmi, cosa deve fare? Deve andare in banca, se non ha tutti i soldi. Deve chiedere un prestito in banca con un certo tasso di interesse. Bisogna che il prestito la banca glielo dia. Attenzione che oggi, da Basilea 3, è molto difficile che le banche che hanno una gestione del rischio, che gliel'hanno cambiata praticamente, che gli prestino i soldi. Questo blocca l'economia, blocca il lavoro. Io divento diffidente, se lei mi chiede il lavoro di ristrutturazione voglio sapere se avrà i soldi, voglio che mi paghi in anticipo, è un disastro, oppure accetto, ma lei non mi può dare i soldi, la banca non gli fa il prestito, io non posso pagare i miei operai, è un vero, assoluto disastro. Ci sono persone che lavorano, sapete quanti sono i suicidi nelle microimprese? Ci sono persone che lavorano, il lavoro ce l'avremo, o che hanno lavorato per le amministrazioni pubbliche. Allora, cosa succede all'interno del Sardex? Io ho fatto il lavoro per lei, 10.000 Sardex, benissimo, non devo aspettare che lei mi restituisca, no, posso spenderli all'interno della comunità. Ma lo sapete qual è la differenza? La velocità di circolazione della moneta, di questa moneta che è moneta virtuale, è solo unità di conto, aumenta di 10 volte all'interno della comunità. Ed è incredibile. Questo è incredibile, perché la comunità rifiorisce. E attenzione, se io ho dei Sardex, li posso spendere presso i grandi centri commerciali che magari fanno capo a delle multinazionali? No! E sapete qual è la testimonianza, una testimonianza bella che ho ascoltato? Sentite cosa dice un ristoratore che fa parte del circuito Sardex. Si racconta e dice: prima di entrare nel circuito, io sempre più spesso ero abituato a rivolgermi ai produttori locali, pensate alla Sardegna, con le loro competenze, la loro storia, le loro capacità e così via, ero abituato a rivolgermi ai produttori locali, non lo potevo più fare per un motivo, non avevo abbastanza soldi, abbastanza clientela, ero costretto a rivolgermi ai grandi centri commerciali che mi rifornivano degli alimenti che utilizzavo nel mio ristorante e a malincuore non potevo più offrire la qualità nostra. E perché lo facevi? Perché i grandi centri commerciali mi facevano credito 3 mesi, 6 mesi, non gli importava nulla, e quindi io non ero costretto a rivolgermi alle banche. Ma qual era lo scotto che pagavo? Che non potevo utilizzare la produzione locale con la sua qualità e così via. È entrato nel circuito Sardex, la situazione è cambiata. Come? Nel modo che dicevamo prima. Io ho fatto un lavoro per lei, ora li posso spendere immediatamente all'interno della comunità. Quindi la velocità di circolazione della moneta è incredibile, aumenta di 10 volte. Come funziona praticamente? Secondo il sistema delle banche ti viene consegnata una carta di credito. Tu hai una carta di credito, fai un pagamento, il tuo conto va giù. Ricevi un credito, il tuo conto va su. Puoi entrare dentro la comunità, quando entri dentro la comunità viene valutata la forza della tua impresa, ti viene fatto un credito, tu puoi immediatamente spendere senza vendere. Guardate che è incredibile ed è eccezionale. Prego, prego. Però il fatto è che sia sensato che mi torna, cioè perché comunque c'è una... anche se non è in euro, però è una compravendita a tutti gli effetti. No, è una permuta. Si pagano le tasse, cioè non è possibile l'evasione fiscale, perché tutto è registrato e c'è un articolo del codice penale, civile, che equipara, diciamo, questa transazione ha una permuta su cui paghi le tasse normalmente. Però attenzione, tutto viene registrato. È possibile evadere? Impossibile. Strutturalmente impossibile evadere. Ma ti importa evadere le tasse se tu appartieni a una comunità che in cui sì, ti dà vita e in cui, diciamo, la solidarietà non è qualcosa di morale, di etico, no, è strutturale e appartiene proprio a quella organizzazione, a quella configurazione, la alimenta. Perché la alimenta? Perché se per caso tu ti comportassi male all'interno della comunità, ne riceveresti un danno per cui verresti buttato fuori dalla comunità e perderesti tutta una clientela. Cioè entreresti in un mondo cui non vuoi più, in cui non vuoi più tornare. Questa è la cosa. Quindi le tasse si pagano? Certo, si pagano. Come? Volevo chiedere come? Perché per esempio tu hai parlato anche di professionisti. Ora, io sono architetto, non faccio la professione, lei è urbanista, ma se ho bisogno di una consulenza urbanistica oppure un avvocato, come si coinvolgono i professionisti? Benissimo. Allora, tu chiedi di far parte del circuito, ti accolgono. Nel momento in cui ti accolgo, immaginiamo che sei, che ne so, un contabile o, come hai detto, un architetto, tu offri i tuoi servizi alla comunità. Qualcuno si rivolge a te. Nel momento in cui si rivolgono a te e tu offri il tuo lavoro, tu avrai dei crediti. E dove li spendi? Nei negozi dove c'è la targhetta, per esempio, devi sposare tuo figlio, tua figlia. Cosa fai? Se hai dei crediti, dove li spendi? Nell'economia locale, cioè spenderai quei crediti nei negozi o a tua volta puoi aver bisogno di un dentista. Il dentista ha la targhetta e dice: io faccio parte del circuito, ti offre i suoi servizi. Nel momento in cui tu vendi i tuoi servizi, accumuli dei crediti. Questi crediti non puoi convertire in euro, quindi non puoi spenderli fuori dalla rete di mutuo credito, li devi spendere dentro. Come si coinvolgono i dipendenti? Io pago, faccio una contrattazione di secondo livello e pago una certa percentuale dello stipendio, la do in euro, un'altra percentuale la do in Sartex. Il 10, il 20%, il 30%. Lavorano per capire quanto posso dare in Sartex ai miei dipendenti. Ma qual è poi il vantaggio? Tutti lo capiamo. Questi Sardex verranno spesi nella comunità. Il circuito dell'economia si chiude localmente. E questo è fantastico. Prego. Questo avrebbe, diciamo, un tipo di sistema così, richiede però appunto delle regioni in cui ci siano delle comunità, quindi sostanzialmente più il contado che la città, mi verrebbe da dire. Questo è un sistema che ricostruisce la comunità, la ricostruisce dove prima il sistema precedente fa il deserto, questa ricostruisce pian piano la comunità. E attecchisce, diciamo, all'inizio attecchisce dove già c'è in qualche modo, fisicamente, geograficamente. Bisogna fare un lavoro, è importante capire quale lavoro va fatto per costruire. Però attenzione, dopo, quando si supera una fase critica, questo lo dico perché lo raccontano loro, la comunità cresce su se stessa. Cosa fanno loro? Hanno cominciato a organizzare degli incontri in cui quelli che erano dentro raccontavano a quelli che guardavano da fuori ed erano ancora incerti cosa significasse entrare dentro il circuito. Ma non è una comunità chiusa, è una comunità chiusa a coloro che danneggerebbero, ma è una comunità in continua crescita e che diciamo fa propri dei criteri, che sono criteri condivisi, infatti hanno un codice etico. La seconda e ultima domanda che mi chiedo, stavo pensando alla povera Grecia, sì, che è messa assai peggio ora dell'Italia, quanto un sistema del genere potrebbe veramente attecchire in sì, una realtà così. Attenzione, un sistema del genere aiuta moltissimo, ma dovremmo ragionare ancora più in grande. Per esempio, questo sistema può aiutarci a fare gli investimenti pubblici? Attenzione, la questione è molto, non è così semplice. Può risollevare le sorti dell'economia locale? Sì. Ma di cosa abbiamo bisogno parallelamente? Di una moneta non a debito, che non ci indebiti ulteriormente. Guardate che noi abbiamo svenduto tutto, le privatizzazioni, che ci hanno, abbiamo detto prima, abbiamo fatto delle leggi per svendere il demanio. Demanio idrico, marittimo, minerario, naturale, artistico, culturale. Abbiamo fatto delle leggi per far cassa, cioè stiamo svendendo i nostri fattori produttivi. A chi? Se io vendo un grande albergo che si trova nel centro di Roma, lo vendo agli arabi, gli arabi verranno in Italia e io potrò lavorare, ma come? Mi daranno un lavoro come cameriere. Ma quell'albergo di chi era? E perché l'ho dato a loro? Cos'è che mi ha portato a venderlo? Il fatto che uso moneta a debito. Ora attenzione, è importante il discorso della moneta. Guardate che è essenziale. Noi non capiamo nulla, poi dovremmo ragionare intorno al rapporto tra moneta e sostenibilità ambientale. Un argomento enorme, enorme. Vi dico una sola cosa. Una delle ultime leggi concepite è che Paolo Maddalena si danna in giro per l'Italia a dire: ma lo state vedendo cosa stiamo facendo? Com'è che gli ambientalisti non se ne accorgono? C'è una legge che si chiama ammazza foreste. Cosa significa? Che abbiamo dato la possibilità di utilizzare la foresta per ricavarne materiale organico da bruciare nelle stoccate. Le biomasse che si possono... Allora, ma dobbiamo capire perché siamo ridotti a questo. Perché se non capiamo perché siamo ridotti a questo, ce la prendiamo con Tizio e con Caio e non abbiamo capito chi è il nostro nemico. Capire chi è il nemico è la cosa fondamentale. Capire cos'è la moneta è estremamente importante, perché mentre prima la moneta era pubblica, possiamo dire così, ora è diventata privata. E tu prima hai detto, con poche parole, hai fatto un discorso enorme, così come ha fatto un discorso enorme lei, come l'abbiamo fatto tutti, con poche parole. Di moneta oggi in circolazione ce n'è quanta ne volete, ma dove circola? Circola all'interno dell'economia finanziaria speculativa. Chi è il nemico? Sono le multinazionali? Sì, sono le multinazionali. Sono le grandi banche d'affari? Sì, sono le grandi banche d'affari. Sono le società di rating? Sì, sono le società di rating. E come sono riunite? In grandi corporation che si chiamano fondi di investimento speculativi. Sono proprietari di tutto. Non è più, non c'è ormai, noi siamo fermi al conflitto tra chi dà lavoro, diciamo l'operaio, per intenderci, scusate, chi dà lavoro, cioè il padrone, nell'epoca passata, e l'operaio. Questo conflitto c'è ancora? Sì, c'è ancora. Ma accanto a questo conflitto ce n'è un altro, enorme, grandissimo, tra chi detiene il capitale, cioè tra i creditori e i debitori. Ma signori miei, tra i debitori non ci sono più ormai soltanto le famiglie, le imprese, ci sono gli enti locali che sono diventati degli esattori delle tasse, ci sono interi stati che possono fallire. Si parla di default statale. Abbiamo assistito alla Grecia, di cui bisognerebbe parlare a lungo. La Grecia è un paese che ha un PIL, un prodotto interno lordo, equivalente a quello di una regione italiana. Niente di più. L'Italia è un paese enorme, con una capacità produttiva, una diversificazione merceologica importantissima. Noi in questa condizione riusciamo ad avere una bilancia commerciale in positivo, riusciamo a esportare più di quanto importiamo, anche perché ci impoveriamo, ma la nostra capacità di produrre e di piazzare i nostri prodotti all'estero, malgrado il cambio fisso nel sistema dell'euro, qui dovremmo spendere due parole, cosa significa? È come ci i nostri noi è come se avessimo una moneta, l'euro, che è sopravvalutata rispetto alla nostra economia. Cosa significa? Che se andiamo all'estero compriamo facilmente. ma il listino prezzi dei nostri prodotti all'estero è molto alto. Allora, per rendere competitive le nostre merci all'estero, cosa facciamo? Deflazione salariale. Dobbiamo pagare poco gli operai, dobbiamo renderli licenziabili. Questa è la situazione. E allora abbiamo concepito leggi che annullano i diritti dei lavoratori, lo statuto dei lavoratori degli anni 70, e abbiamo concepito leggi che frammentano il lavoro, che non permettono alle persone di lavorare. E ci abbiamo persone che hanno 40 anni, 50 anni, che vivono in una situazione continuativamente precaria e l'abbiamo naturalizzata, come se fossimo in una situazione di povertà. E ci impoveriamo sempre di più perché svendiamo, come hanno fatto i greci, anche i fattori produttivi. I greci sono stati costretti a vendere tutti gli aeroporti, hanno venduto tutti i loro asset per ripagare il debito. Guardando la Grecia mi viene però un senso di grande tristezza. Ma è la prima, perché è con grandissime tangenti, cioè c'è dietro intanto, da quello che ho sentito, quando è stato fondato l'euro, la Germania ha fatto subito un gioco sporchissimo, perché lei ha avuto, diciamo, la valutazione doppia, cioè ha svalutato gli altri compagni europei. Ah, però poi in Grecia la Germania con la Siemens ha fatto un gioco sporchissimo, questo leggevo un anno o due fa su un giornale, per cui con poche tangenti loro si sono comprati la popolazione e quelli erano lì a pietire, cioè li hanno fatti fallire per poi mangiare la carcassa. Certo che siamo noi a rischio, allo stesso rischio, ma diceva il buon Conti, qui era assessore della regione Toscana, poi è morto, e siccome gli americani amano, ma soprattutto hanno tantissime proprietà immobiliari in Toscana, in Italia non sarebbe andato come in Grecia, proprio perché loro hanno tanti interessi e fondiari immobiliari. È un discorso un po' complesso, Marina, avremo bisogno di un po' di tempo per parlare di quello che è successo con la Grecia e quello che ci sta succedendo a noi, per analizzarlo a fondo. Comunque ci sono molte verità in quello che hai detto. Ma tu sei un economista? No, sono un fisico. Ormai ormai sono. Ma io ho capito che mi aveva chiesto, ma tu sei comunista? Beh, in quel caso ti avrei risposto sì, lo sono. Un bene comunista. Uno dei capitoli del mio libro è intitolato sui beni comuni. Il mio libro, se lo volete, costa 22 euro, ma a voi lo do a 15, cioè quanto me l'ha dato la casa editrice. Io ve lo consiglio. Chi può, eh? Io ora vi accorgerete che c'è solo una cosa, ma il Satex non è un bitcoin? No, il bitcoin ho dedicato un intero capitolo, cosa estremamente interessante, la moneta digitale. Io sono un po' come lei, perché lei ho visto che c'ha, a me piace l'economia, ho visto che c'ho una vocazione, no? E mi accorgo nei laboratori che questa mia stessa vocazione è estremamente diffusa. Cioè l'economia non è difficile, è questa la cosa. Oggi perché faccio la casalinga. Allora guardate, l'economia non è difficile. Io mi accorgo, per esempio, quando lavoro con i bambini, con le persone anziane, con quelle che non ne sanno nulla, e tu sai fare le domande, ti danno le risposte che io ho faticato a trovare, ma quando siamo in gruppo e non andiamo per la tangente, no? Perché in un laboratorio cosa succede? Oggi non è accaduto, ma se si sbaglia in un laboratorio, ciascuno di noi ha fretta di dire subito tutto quello che già sa, e racconta tutti i luoghi comuni, tutto quello che circola, tutto quello che già sa, mentre se ci si interroga e ci si ascolta e diciamo un po' come abbiamo fatto oggi, non si pretende di trovare la risposta a tutto subito, si comincia un percorso che è interessantissimo e che è vitale per tutti noi nella situazione in cui ci troviamo. È un vero viaggio, sai che parti ma non sai dove arrivi. Sì. Non hai già... No, dove arrivi, arrivi alla comprensione. Io vi rileggo perché... Vi voglio rileggere queste parole di Danilo Dolci. Perché mi sono messo a studiare l'economia da educatore? Lui dice, ve lo rileggo, c'è il volgarizzatore, anche utilissimo, e c'è chi si mette, indipendente dalla forza costituita, a suscitare nel popolo verità vive, a cercare strade più vere, in modo che nuova forza nasca dalla verità. E questo, credo, è un educatore. Ecco perché mi sono messo a studiare l'economia. Posso fotografare la copertina? Prego. Alla consegna quella Positive Money... Positive Money di Fabio Conditi. Sì, certo. Sono loro, appartengono a un movimento internazionale, in Italia si chiama Moneta Positiva, Positive Money, e ragionano molto sulla patologia introdotta nell'economia del tasso di interesse. Quel discorso che vi ho fatto prima è riportato pari pari da Positive Money. Sì, ma loro hanno imparato moltissimo da una donna non economista, la Marguerite, ora però mi sta sfuggendo il nome, anch'io ho imparato moltissimo da lei, una studiosa delle economie alternative e delle monete alternative, ed è una donna fantastica, credo che non sia più viva, e si chiama, ve lo saprò dire, mi dispiace non mi ricordo il nome, è un po' fuso. Alla Banca Etica c'era un giornale che si chiama Valori che spiegava tutto questo. Sì. Sì, banca etica è importantissima perché non è una banca d'affari e lavora nell'economia reale, raccoglie risparmio e lo impiega secondo criteri etici, è costretta a utilizzare l'euro. E il buon Ugo Piggero diceva che avevano chiesto dei candidati. Banca etica potrebbe fare una cosa, potrebbe gestire delle camere di compensazione, ha tutta la tecnica per farlo, potrebbe gestire delle camere di compensazione, cioè potrebbe mettere in piedi dei suoi circuiti di credito cooperativo. Se viene invitato potresti venire a una assemblea di soci. Certo. Allora dopo mi lasci il certo. Perché questo sarebbe creato. Anzi, ma vi dispiace che mi date i vostri indirizzi così. Io volevo la tua mail, sì. Me li scrivete qui, fallo girare, ci scrivi nome e cognome e indirizzo di posta elettronica, così, così vi posso. A me è che ti devo chiamare qua. Vediamo. Noi siamo due. Ok. Allora, ti do 5 euro, vediamo se ce l'ho. Sì. Tu mi puoi accompagnare? Ma fantastico! Ero vicina, ti dava un litro d'olio. Sì, guarda, ma andava bene, ma andava benissimo. Lo sai che non ce l'ho, mannaggia. Non ce l'ho, c'ho 10 euro. No, e io non. A me fanno un po' dare. Grazie mille. Ma il libro si trova? Sì, lo trovate o rivolgendovi direttamente all'ETS oppure su IBS. Ah, IBS. Però la mia mail perché io sì. Non cade. Ah, dovrò... Guarda, se scrivi qui la tua, poi io vi scrivo a tutti. Ah, c'è anche un mio blog che si chiama francescocaffello.com. Però come la scrivo su francescocaffello.com. Ambientalisti, qualcosa ti posso aiutare. qualche danno la sua carta d'ambizio ce l'avevo ritrovare, ti do veramente ragione, c'è ancora a fare un lavoro di tutta la parte a ricominciare da capo, ricordatevi di sentirvi che potete venire, dove non ci sono, aprile. E io sono fuori Firenze. Il 7 aprile, convegno internazionale, 70 anni della NATO. Altra situazione terribile, legata all'economia. Faccio la foto. Bisognerebbe fare dei laboratori che si collegano a porto tra le comunità. È un bilancio storico sul settantennale della NATO. Guardate i nomi che ci sono. Io dovrei, se riesco, devo aggiornarmi sulla questione Sardegna, ce l'hanno qua. Io faccio la foto, la faccio la foto. Cambiare da 5, ci avete da 5? Invece dell'interesse negativo, scusa, invece del fatto che i soldi che erano semplicemente valore, non esiste un problema. Quando tu sei e non intendi una parte di questi soldi all'interno della rete di credito devono essere devoluti alle associazioni. Dove c'è la mia donna? Ci vuoi spiegare il resto di film? Allora, Ti devo dare? C'hai 5? Sì. Grazie. Forse. Dai, dobbiamo andare al bar, scusate, se no, di prenderci un prosecco. Grazie a te. Sarebbe interessante che faccia una tesi, per questo argomento. Sì. Sì. Ci sono. Dai, ci sono un mare di cose. Guarda che bella la lira. Io mi sono innamorato della lira. Guarda un po'. Questa era la nostra lira. Guarda cosa c'è? La quadrupole. E guarda dietro, questo è il vetro della lira. Questa è la minaccia della giustizia. Oh, prendete? No, c'è quello. Grazie, cara. Grazie. No, questo è troppo. Hai preso il libro? No, non lo preso. Lo trovi. Vabbè, non preoccupare. Ma lo trovi. Nel libro c'è un'enormità di cose. È un'immagine compresa anche la città foresta. Ah. Diciamo le tecnologie. Il governo della NATO. Per fare una rivoluzione in cambio a chi gli manca di mettere la mente? Io non metto la spero che legga bene. Sì. Oh, che bello. Grazie ancora, presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. CHENOAWOL O-L-F. Wolf. Ah, Wolf, come il lupo. Io spero di comprare una cosa. Ma un lupo africano? No, è un lupo, taglia rossa, dice no, non è una rossa. Va bene, d'accordo, grazie. No, grazie a te. La sì, è un po' piccolo. Sì, ma l'alternativa è perché era più grosso e costava. Fare più grosso, brava. Vabbè, non è dai, prendiamo il buono. Grazie. Allora, posso anche mettere allora spero. Laura, non mi ricordo. Figurati, io ci devo leggere. Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma peccato, è bellissimo fare l'insegnante. È vero. Quindi ho fatto la cosa, però a un certo punto è diventato un'esigenza anche di collaborare. Quindi ho fatto sempre la rappresentante dei genitori e poi mi sono dedicata